ne ho ingaggiato. Ah, così. Ok, vediamo se Natalino c'è ancora. Avanti Natalino. Oh, io sono tutto gonfio. E là, fermi. Tu sei ancora al sesto mese, ce n'è ancora, arrivare a nove. Pomponi è incinta invece, vero Pompon? Incinto sono, 9 mesi. Avanti Gianfranco, scomparso Gianfranco. Antonello oggi stranamente sta uscendo bene. Chi? Io? Antonello. È strano, Ma Marie, però il rumore, ha parlato troppo in fretta. Io non ho toccato niente, figurati tu. Scatta questo, c'è via la giostra, l'autoparco. Adesso va bene, 1, 2, 3. Un po' meglio, dai. Questa è compagnia mia, di Luca e di Gianfranco. Vai Gianfranco. Sì, anche a me infatti le stavo dicendo, attenzione Antonello perché sta uscendo bene e poi fortunatamente è ritornato al suo stato normale. Io bisogna che cambio tutto qua, antenna, baracchino, me ne vado in Sicilia, me ne vado lì dove c'è il coso, il ciclone, almeno lì posso uscire tranquillo, c'è l'acqua, a voi la massa terra lì, basta un pezzettino di cosa ti posso dire, di un'antenna di macchina, a voi la massa, fatto che radiali è. No, io ti volevo dire, ma Roberto, immagini l'Antonello che va in un posto a fare operazioni di protezione civile in cui le radio praticamente devono essere perfette, perché sennò ovviamente non ti ascoltano. Invece qua una cosa all'altra, ronzii, o trick e track, o bip del contro bip, insomma c'è di tutto. Guarda che io ho fatto la cavalcata sarda in Piazza d'Italia col 680 con 12 pp e 4 ottoni l'esattezza, e a 200 metri dove ero io c'era quello che in pratica parlava con l'amplificatore eccetera eccetera, e se si sentiva il bip mio dentro le casse, tu figurati tu, se lo chiederei a chi vuoi. Ma ti parlo di tanti anni fa, quando si faceva la cavalcata, si faceva la sede in Piazza d'Italia, allora c'era anche, addirittura l'escoposto c'era. C'erano tutti lì, l'escoposto lì, quindi io l'ho detto, ne ho fatto, non ti preoccupare, uscivo tranquillo, nessuno mi ha detto niente. Sì, perché oramai ci avevamo rinunciato a dire cosa. Riprendi Roberto. La cosa bella di cosa? Mi ricordo mio fratello quando ci avevamo le moto modificate, lui è riuscito a aprire il motore, lui aveva il ciao con tutti i tipi di modifiche possibili e immaginabili, lui le ha provate tutte, di tutte le marche, e era riuscito a trovare il coso, il giusto compromesso, prestazioni, consumi, durata, eccetera. E una settimana è riuscito a modificare 7 motori, lui, non sto scherzando, ha aperto 7 volte il motore per provare quel pezzo, mettere là. Quando gli ho detto ho trovato adesso il giusto compromesso, come si chiama, è uguale, lui lo fa per radio, quando trova la radio perfetta che funziona bene, o se la vende o la smonta. Adesso le radio stanno uscendo bene, però c'è questo rumore sotto. Alimentatore quello è. Non ti preoccupare, vedrai già esco bene domani, così siete contento, va? Domani metto il ponte di rigo di agganciato all'alimentatore vecchio, così almeno non senti più questo shhh, a posto, e siamo tranquilli, almeno sei contento. Sembra che uno vicino si sta asciugando i capelli col forno, questo Già ho capito, non ti preoccupare. Vediamo se Luca c'è ancora, avanti Luca. Sì, sono qua, brutto buco. Brutto buco, brutto. Un buco. E sto andando TikTok. E metto dei video carini, là. Però una volta che faccio a dormire questo cavolo di... Per il momento non ce l'ho, ma di pancia. Adesso ho toccato a prendermi un antidolorifico. Oh Luca? Sì? Comunque guarda che forse se sono calcoli non c'è bisogno di bucare, di fare cose. Lo possono fare anche con l'endoscopio, perché lo raggiungono, lo prendono e lo tolgono, capito? Perché poi facendo un intervento, quella che si chiama colicistemia, la dieta poi ti diventa un po' difficile anche, perché è un po' pesantuccia, niente più fritti, niente uova, cereali, solo cereali integrali, tipo riso, la pasta, e quindi è più limitante, capito? Mentre con quello là, con l'endoscopio, te le catturano e te le regalano per il corno. Ma vabbè, per un periodo possono fare una dieta, capito? Per un periodo, però poi puoi mangiare, io conosco tante persone, no, comunque te la asportano proprio, te la levano proprio. Non lo so, quella digestione è più lunga, Ma la migliore sarebbe prima fare trattamento con endoscopio, che ti toglie il problema, se sono calcoli, se poi la fede che proprio sta andando male, allora un altro paio di maniche, però è un po' così. Comunque, già ti informeranno bene quando fai queste cose. Riprendi roba. E su queste cose voglio andare a diversi consulti da degli specialisti, prima ne provi uno e poi chiedi ad altri. Vedi un pochettino. Io faccio sempre l'esempio della sorella di un mio dipendente che ha avuto un incidente gravissimo in moto. La gamba quasi completamente attaccata, pesante anche fisicamente, questa ragazza pesa la botta, 100 kg. Gli era quasi tranciato di netto la gamba, la tenevano soltanto un'arteria e non so che cacchio di legamenti, c'era un pezzo di muscolo che la teneva. Quando è andata all'ospedale ha rischiato di morire, infatti ha detto questa, meno male, siamo riusciti a salvarla. Quando la stavano guardando ha detto qua bisogna amputare. C'era un tipo di lì fuori, gli ha fatto guarda che c'è un seminario in contemporanea oggi qua e ci sono degli specialisti da tutto il mondo. Prova a parlare con uno di loro. L'ha vista questo qua, l'ha guardata e ha detto lascia stare, portamela da me. L'hanno portata a Cagliari e gli ha salvato la gamba. Adesso questa ragazza, è successo 7 anni fa, cammina perfettamente, tutto a posto. Qua la stavano tagliando, non per parlare male di qua, però ci vuole gente specialista su quel tipo di cosa, di operazione, perché ne ho visto tante. È come il dentista, uno ti dice dai, te lo curo il dente, l'altro è tullo, che tanto non serve a niente, ti dà solo fastidio, e così molte cose. Ci sono quelli che sono veloci a togliere e quegli altri che dicono aspetta un attimino, proviamo a fare questo tipo di operazione diversa. Infatti per Luca sarebbe opportuno consultare altra gente, capite? Perché magari quelli devono stare dei sassolini, non puoi più giù e trovano due crassi, li tolgo e poi si trova male. Però. Io faccio l'esempio di quel sistema, quello del professor Papponi, che tutti prima operavano, non c'è niente da fare, invece adesso ci sono altre soluzioni. Papponi o Pappone? Pappone, dai, già mi ha capito, quello di Milano, che può fare quel tipo di coso che ti infila la sonda dall'ingrone e arriva sino al cuore, e ti fa quella scarica e ti penalizza quel problema che c'hai tu. Che c'hai tu, che potresti avere? Sì, quella si chiama ablazione, c'è da tanti anni. Io lo conosco quello lì, lo sai, è la faccia sputata veramente di Danny DeVito, l'attore, è così basso, si fa quasi ridere. Sì, una mia amica carissima, l'ho accompagnata io, l'avevo fatta a Nuoro, per quelli di Nuoro erano allievi di questo professor Papone. Ma c'è un altro sistema, quelli che hanno il Parkinson, non so se l'hai visto la televisione, l'operano, gli aprono la testa da sveglio, cioè il paziente è cosciente, perché il cervello non ha coso, non ha nervi, nel senso non senti dolore, e ti fanno questo lavoro, il coso in diretta, l'ho fatto nella televisione, sembra tipo il film Frankenstein, e ti risolve il problema del morbo di Parkinson al 95% dei pazienti, ma casi gravi o come si chiama, attacchi di, come si chiama, non schizofrenia, di, aiutami, epilessia, epilessia, lo stesso gli risolvono i problemi, quelli che hanno 3 o 4 attacchi al giorno. Con questo tipo di operazione, tac, è tipo quella che mi hai detto tu, transcatetere, ablazione transcatetere o cosa del genere, non mi ricordo come si chiama, quando c'erano quei tipi di tachicardia e cosa del genere. E sono operazioni assolutamente delicate naturalmente, sì, però fatte con certi metodi avveniristici e ti risolvono il problema. Sì, la conosco bene. Tra l'altro viene fatta un'anestesia locale, quindi se la puoi anche guardare. Sì, sì, l'ho visto alla televisione, l'ho fatto vedere, cosa, tu dici cacchio con la testa aperta. Sai quello del film Centro degli Innocenti? No, più che altro Master e Commander, se l'hai visto, che col dottore erano tutti guardando col cucchiaino e non ha tolto non so che cosa, eppure ha messo una piastra ed era a bordo di una nave. Sì, ho capito, no, io sto parlando, Anthony Hopkins, quell'attore fuori di testa, che è uno che c'era la maschera e poi l'hanno arrestato, quando ha torturato quel tipo, gli ha aperto la testa, l'ha seduto, gli ha aperto la testa, gli ha mangiato un pezzo di cervello, poi non è morto, continuava a sentire, perché il cervello si dice, poi bisogna se è vero, non sente il dolore il cervello, cioè magari senti il dolore è tutto quello che c'è intorno, però se tu il cervello lo pungi, non sente dolore. Però perdi alcune funzioni. Riprendi, Antone. Mi sembra di essere, ma ti posso dire, ci sono vari film adesso, Grey's Anatomy, di tutto c'è, poi c'era il famoso medico, vabbè, che è sparito adesso, non sta più facendo film, quello era tocco, guarda, è più bastardo che c'era, cazzo, il medico. Ci voleva quello, ci voleva Pronto Soccorso, guarda qua, Sansa, una cosa del genere, per fare schiaffare a tutti, cazzo. Dottor House sta dicendo, no, era tolto quello lì, è simpatico. Vediamo Luca, avanti a te. Ehi, vabbè, comunque vediamo, dai. Poi lo devo fare. Comunque, come stavo dicendo prima, molta gente l'ha fatta, questa operazione, e ci stanno benissimo. Sono brutti, quando ti vengono gli attacchi di alla pancia, dolori forti, non sono belli, fanno stare male. Tipo stanotte non ho riposato poco, alle 3 mi sono svegliato, boh, non riuscivo a prendere il sonno. Quando ce l'hai proprio fisso ti prende il cervello qua. Cosa prendi, qualche farmaco? Sì, gli occhi, fammelo calmare, sì. Solo occhi prende e basta. Facciamo la Vivincin, così si chiama, quelle effervescenti. Lo so, però a lungo andare quella fa altri danni, gli occhi soprattutto sono degli antinfiammatori a cui bisogna stare un pochino attenti, solo per tutto l'apparato gastrico, stomaco, intestino, eccetera. Bisogna stare molto accorti a quelli lì, non abusarne. E anche genitale addirittura, non adesso più. Già non funzionava più adesso, senza prendere gli occhi, un po'. No, davvero non sto scherzando, no, l'altro giorno, vabbè. Ma comunque sia, vabbè, lo sai che tutti i medici, ognuno dice una cosa diversa, quindi, come Covid addirittura. Quindi prima ho detto che durava 6 mesi, poi durava un anno, poi durava, invece non è assolutamente vero. Tutte coglionate sono. Noi dobbiamo fare la terza dose, chi è vivo è vivo, così con la AstraZeneca, tutte le coglionate che sono state nascoste, tutti i morti che hanno firmato sono morti per niente. Se nessuno aveva firmato sulla AstraZeneca, questo sarebbe stato tutti in galera, quindi. Purtroppo è così. Come succede quando fai, adesso prima di, in pratica di andare in ospedale, bisogna pensarci 2 volte a fermare, è meglio. Forse tu non lo sai, ma per tutto bisogna firmare, anche quando vai a operarti devi firmare, perché è a tuo rischio e pericolo. Sì, ma io non firmo più. Oh. non me ne frega niente, ho filmato io due volte, una volta l'ho fatto per la questione che ero in pratica 2000 ci stavano fucilando tutti e due, hai capito? Poi invece in pratica non c'avevo ragione, né uno né l'altro. Mi hanno fatto il buco nell'arteria dell'inguine e sono stati fino a su per sapere se c'avevo un'angina, capito? Se invece non esisteva niente, quindi in pratica mi hanno bucato per niente. A parte quello, poi sono rimasto quindi, nel pisciare e cagare. Io l'ho detto, non potevo alzarmi, se tu ci avevi venire un come dovevi stare, fallo la padella, cazzo, se io sono abituato a fare la padella, dove cazzo, a un certo punto non ti viene più, cazzo, ti attieni, il discorso è quello, hai capito? E io ho fatto così, da quel giorno gli ho detto, non filmo più niente. Arancina, cosa aveva detto? Ho detto che in pratica mi ha messo la padella. Quando ho filmato, hai capito? Ma tu hai detto, mi hanno trovato un'arancina. Ma cosa arancina? Ma questo è oro, hai firmato e ti sei portato a casa la padella. Abbia con tutti i tetto e me. Ah, ah, ricordo che tanti pigliavo tetto e belli bene. Un'angina, così ha detto la tarifa. Angina, c'ho, peto di sì io, grazie a Dio. Che poi, dopo, in pratica 7-8 mesi che ho fatto la ciclette per sapere, sai, la prova della ciclette per sapere la prova di sforzo. E cosa dice? Dice, ah, guardi, non c'ha più niente, signor Antonello. È guarito, gli ho detto. Ah, gli ho detto, guardi, gli ho detto, ieri notte, lo sa cosa ho visto, gli ho detto io. Mi ha passo, detto, Sant'Antonio di Gallura, gli ho detto. E mi ha detto, dice, Antonello, tu non ti preoccupare, sei guarito. E quelle quattro teste di cazzo che c'hai come medici finiranno licenziati. Così gli ho detto. Oh, scusate, arrivo subito. Adesso va mutuato. E quindi ti è passato? E poi cosa è successo? Te ne è caduto il diesel? Ma chi a me? No, credo proprio. Ah, non è che ti chiami Lazzaro tu, no? No, credo proprio. Lazzaro ti ha detto alzati e cammina, invece a te passa male e vieni via. No, ma mi ha detto, dice, sei guarito, mi ha detto, vattene a casa tranquillo, non c'è problema. E ho detto quello che è venuto a me, ha detto venga a te, gli ho detto, gli infermieri. Fatevi così amici, la prossima volta ti fanno qualche lezione strana. Cosa dici? Mi hanno fatto la ciclette, la prova in pratica, lo sai no? Quella del cuore naturalmente. Devi pedalare, eccetera, eccetera, poi ti controllano il battito del cuore, se c'hai il come si chiama? Il mal di petto, eccetera, eccetera. E gli ho detto, ascolti, vabbè, mi avete rotto i coglioni, gli ho detto, così gli ho risposto. Che cazzo, io mal di petto adesso sono le ore, gli ho detto. Ci ho detto, mal di gambe, gli ho detto, forse non avete capito, gli ho detto. Comunque, calcoli, un amico mio l'ha avuto l'operazione perché era troppo frequente il dolore, una persona grande tra l'altro, e le ha risolto il problema. Però esistono anche i sistemi di bombardamento, lo saprei forse anche più di me, già fra tu, quando sono di dimensioni evidenti li possono anche bombardare. Sì, ma quello sono quelli renali, per spappolarli, eccetera, altro usano gli ultrasuoni. Però ci sono in casi anche in cui quella tecnica a non sposare, ecco, dipende. Ma perché quelli accistitori non li puoi sparare con l'ultrasuone? Quello non lo so. Bisogna per chiedere a un medico di medicina generale se è fattibile quella cosa, cioè di chirurgia generale. Perché sono quelle renali sì, però non tutti, neanche lì, dipende, prima ci vogliono i risultati, capito? No, ma i calcoli, quelli renali, non sono quelli per l'acqua, in pratica. Beh, se c'è, in pratica nell'acqua c'è il calcare, si formano i calcoli. L'unico metodo, in pratica, usano il laser, o mi sbaglio? non ho capito cosa usano il laser, così fanno un buco grande quanto la testa. No, non ho mai capito, no. Usano un sistema tipo laser per fare a pezzi i calcoli. Insomma, cosa è il laser, cosa diavolo usano, la verità. Comunque sia, un metodo ce l'hanno, da quanto mi ricordo io. Ultrasuoni sono ultrasuoni a frequenze particolari, però non per tutti si possono usare come tutte le cose, d'altronde dipende dal tipo di calcolo, da quanto è grande, dalla consistenza, di cosa è fatto. E vabbè, io davanti a me ho avuto una persona che l'ha avuto in pratica, viveva in una villetta e c'era la posta sonda e in pratica ha avuto il calcolo, si sentiva male, è andato al suo soccorso e l'avevano ricoverata, hai capito? Tutto lì. Beh, è ovvio che se uno si sente, cioè ovvio, adesso non tanto, ma se uno si sente male la dovrebbero ricoverare. Adesso stai tranquillo che con tutti gli ospedali che stanno chiedendo tra poco te il ricovero ti fanno. Riprendi Robe. Io l'ultrasuoni, vabbè, te lo pulisce quando si fa la pulizia dei denti, si puliscono i denti, calcare con il tartaro, te lo puliscono con l'ultrasuoni. Una volta c'era quel ferretto AX appuntito e te li raschiavano. Adesso la pulizia profonda te la fanno ultrasuoni. Io ho comprato, forse un paio di anni fa, la Lido, parlando di ultrasuoni, un apparecchietto a immersione, che tu ci metti le monete, l'orologio, qualunque cosa metallica, ci metti l'acqua dentro, poi lo lasci, c'è un timer, in pozzi, non più di 3 minuti, è sconsigliabile andare oltre i 3 minuti, tu devi vedere come ti fa la pulizia degli oggetti metallici, ma proprio a specchio. Se vuoi muovetemi, ne ho, nuove io ne ho, anzi antiche la verità, prese in campagna, dove c'è la campagna io, c'era il passaggio là, fognari, buttavano tutte le monete, allora tutto può fare, prima di quando c'era Mussolini, hai capito? Sai quanto non ho raccolto? Non ho raccolto parecchio, non ho raccolto. Guarda, ho letto a proposito di monete, non so se Gianfranco è più informato di me, nella fontana di Trevi c'è una ditta che si occupa della raccolta delle monete. Se voi sapete quanto incassano in un anno questa ditta, che poi le dà lo Stato, non so che cosa, perché prima le utilizzavano per la Caritas, poi non so cosa è successo, non le danno più perché hanno visto che c'era la mafia anche di lì. Più di 300 milioni di euro dalle monete di coso, della fontana di Trevi. Adesso vabbè, per di Covid non lo so, però incassavano in un anno più di 300 milioni di euro, non so la media al giorno cosa incassano, quanti quintali di monete al giorno recuperano. Qui se scendi per le Pototore, scendi in campagna dove sono io, non sei contento con le monete, è pieno, dove c'era la fogna prima, perché sono tutte monete che in pratica sono del periodo fascista. Hai capito? La parte prima ce le buttavamo tutte nella fogna e quindi siccome la fogna passava lì, sai quanto non ha accolto? Un bene non ha accolto di quelle monete. Sono tutte a casa, sono. Non vuol dire monete fascista, perché non c'era la lira anche nel periodo fascista. Sì, ma c'erano anche monete prima del fascismo, hai capito? Tutte buttate lì erano, in campagna. Io quando ho fatto in pratica le fondamenta della casa, per fare la casetta, non sai quante monete ho raccolto? Siccome lì ci passava la fogna prima, la fogna non è così grande come la prima, era molto ma molto di meno. E quindi ci buttavano tutto, cioè una volta là ci buttavano le monete, hai capito? Che non volevano più e le buttavano lì. Il discorso è quello lì. Sai quanto non ho raccolto? Ne ho raccolto un bene, ne ho raccolto di quelli lì. Adesso le ho conservate, vabbè, e poi si vedrà cosa fare. O ce le butto, se no se la piglia in culo. Sì, già vediamo se è rientrato Luca, Gianfranco. Sì, io vado vado via che è tardi, mi faccio fare una piccola appendicite, così, giusto così me la faccio addosso, e poi ci sentiamo domani, se Dio vuole. Ciao a tutti. Cos'è? No, scusa, non ho capito già fa. Mi faccio fare una piccola appendicite. Aspetta, parlate in due. Cosa hai detto Gianfra? Una piccola appendicite arrosto. No, ho capito, ma pure tu problemi, hai detto, mi faccio fare una piccola appendicite, che vai stai male. No, così giusto, per non buttare niente. Come l'ho detto a Luca, un po' di zimino si fa fare. No, quella è roba dura. Come mangiarsi un pezzo di marmo. E vabbè, lo pulisci. Come lo zimino. Comunque anche io stavo per chiudere, dai. Ci salutiamo a tutti. Ciao Antonello, ciao Gianfranco, ciao Luca, eventuali amici ascoltoni su canale 10. Ciao ciao, alle prossime. Ciao, buonanotte. Saluto i belli a tutti e tre. E a domani. Ciao, ciao Antonello, ciao Luca. Ciao Roberto, alle prossime. Ciao ciao.